sai nulla di sotto banco? Beh, no, no. Però vorrei fare anche, se potessi, la... i porti d'atto. Ascolta, non le stai più facendo protezione animale, quella roba lì? Sì, sì, certo. Ah, lo stai facendo sempre. Porterato bisogna conoscere gente, se no, te lo dico chiaro e tondo, io ho fatto domande a tutti gli istituti e uno me l'ha detto chiaro e tondo, se non conosci gente, guarda il cestino. Già lo so, so tutto già. Ma qui c'è l'amico, cavolo, e lo ti aiuto. Buon porto, vediamo. Quello non ti può aiutare, già mi hai capito. No. Quello che era lo stesso gruppo tuo, Sassari, eccetera, eccetera. Ah, cosa cazzo? No. Ma lascia perdere. Io pensavo che magari quello ti potesse dare una mano. No, vabbè. E bene o male si trova prima o poi. È che si invecchia poi, capito? Cercando lavoro uno diventa grande e poi non ha più da. Già, lì ci vorrebbe fare un politico. Ma un politico però. Dove sono un assessore. No, io lo so dove devi mirare. Lo so, giusto, giusto, lo so chi è che ti può aiutare. Vabbè. Però lo devi conoscere. Certo. A me mi aveva indirizzato la guardia giurata. Detto, vai lì e... mio socio era ispettore di polizia, ma quando poi si pensiona non vale più nulla. Addirittura questo qui era l'ufficio con lui, questo che praticamente poteva aiutarti. Era un ufficio con lui e gli ha detto che non poteva fare nulla perché il portogallo lo stavano rilasciando dalla prefettura per parlarmi lui. Se vediamo già, vediamo un po'. Io volevo prendermi cosa, porto d'armi, però stavo pensando a, come si dice? Dice che lì ti fanno fare un sacco di ore. Sì, sì, quello sì, se la metta anche sempre Manuele che fa migliore. E fanno molte ore, sono pagati poco, capito? Portierate quello che è pagato di meno. Quelli armati sono pagati qualcosa in più. 5 euro l'ora. Sì, ma rischiano troppo per quello che fanno, capito? Per quello che sono pagati rischiano. Sono 10 euro, 50 euro. Secondo di bolle in banca, adesso non è più come prima, fanno rapire, fanno questo, non ti mettono sul portavalori. Lui, passabili. Adesso sono spiettati, muore la bomba, va a brincare il tuo gatto, e se mi dai di lei si rifugi. Prima... Io già sto masticando, sto mangiando. Comunque, adesso vediamo, dai. Quanto prende rapire, cavolo, in poco tempo. Vediamo come... Come si dice, come si evolve la cosa? Io ho un amico che è partito fuori, però è vicino a Treviso. È partito per gioco, adesso si è sposato, ha cambiato 3 o 4 istituti, adesso è con la Mondial Pool e guida il furgone portavalori. Però lui fa l'orario normale, dalle 8 alle 2 ha finito non lavorare di notte, di mattina e di sera, dalle 8 alle 2 fa la mattina sì, dalle 8 alle 2 poi, la sera no, la notte no, quindi c'ha anche la sera libera, però fa un lavoro ed è pagato ben bene, perde oltre i 2000 euro. 8-1, ma anche 8-14 non è male. Sì, loro fanno portavalori, però vanno a ritirare dalle casse che ci sono nei supermercati, eccetera, capito? Fanno questo lavoro qua. E lui dice sì, lì sì, c'è, però c'è anche un buono stipendio. Prima facevo 300 km a mettere i bigliettini sotto le serrande, faceva 2 comuni addirittura. 300 km a notte faceva. Mamma mia, no, così no. E ha iniziato così, poi ha cambiato, ha trovato di meglio, poi piano piano è arrivato alla Mondial Pool e sta veramente bene, perché loro hanno il contratto nazionale, non hanno quello regionale come qua, loro hanno il nazionale, quindi col contratto nazionale è più di un bel di sicuramente è così. Vabbè già. Vabbè io per le ore che faccio già sono pagato bene. Vabbè, se poi c'hai il tempo libero, solo che magari sei strano quando tu. Vabbè. Alla fine io faccio da lì, vado a farmi altri lavori, capito? Se mi esce qualcosa, come è già successo. Forse domani, per esempio, devo andare da questa signora a portare un telecomando. Ma che se faccio un favore, eh? Anzi, mi sono... come si dice? Ma adesso mi viene la parola. Comunque per portarglielo io, dai, non mi viene la parola adesso, vabbè. Domani vado e glielo porto. Ti sei impegnato a portarglielo così? E non ho impegnato proprio, la parola giusta, vabbè, comunque. Domani vado e glielo porto. E poi non ho niente da fare domani. Se mi esce qualcosa sono impegnato già, perché ma tu già la mandare a tirare la torta e poi domani sera sono al Backstone a comprare di Carletto il 22 di aprile. Però l'ho fatto già sabato. Lo so, le ho fatte anche gli auguri. Al Blackstone, io vado ogni sabato lì. Ogni sabato vai. Cavagallo. Quando c'è il karaoke sì. C'è qualche sabato che magari c'è fisarmonica oppure canti sassaresi. Allora non ci vado, vado quando c'è karaoke. Due volte sono capitato che c'erano canti sassaresi e poi una volta che c'era un ragazzo che suonava la fisarmonica, ma era bravissimo, suonava tutte le canzoni di adesso. Sabato c'è karaoke, me l'avevo già detto. Ma sabato no? E io? Ah, voi andate sabato no? Sì, sabato a cena. Beh, può darsi che ci sia anch'io. Se Massimo, sempre un amico mio, non è di turno di notte, perché lavora in ospedale, quindi a volte gli capita di notte. Se non è di turno di notte, vengo. Non so chi ci sia, ma ha fatto il nome anche, se non lo ricordo. Vabbè, non lo conosco, io conosco più o meno tutti quelli che fanno karaoke. Poi già mi sono preso questo telefono, però come aveva detto che era, vabbè c'ho la custodia, l'S23 Ultra, cazzo una bombetta, 256 giga, una bomba, solo che è più da femmina. Ma no! Scusate, ma è fiammante, ma lo sto vendendo di nuovo, 350, l'ho pagato 350, lo vendo, ma nuovo nuovo, però bomba, eh. E quanto costa nuovo? Allora, c'è il ricondizionato a 650 lo vendo, 700, dipende. Questo è nuovo, nuovo, nuovo, questo qua è costato 1200 mi sa. Vabbè, ma magari adesso è obsoleto, magari adesso ne hanno fatto altri modelli, perché la tecnologia ogni mese mi deve usare. Sì, sì, vabbè, adesso vale 500 euro. 480, l'ho visto, più poco 480 nei condizionati. Questo è nuovo nuovo. 350, l'ho pagato 350, l'ho venduto. E mettilo su subito. No, l'ho messo già su nei gruppi. Una ragazza mi ha scritto che era interessata. Ragazzi, già 50 l'ho mascalato. No, se lo vuoi 350, se no lo lasci. Vabbè. Infatti i pezzi non li devono fare loro, devi fare tu. Se lo vuoi non se lo lasci. Ma infatti adesso mi fa, volevo le foto, ho capito, fammi sapere qualcosa, mandami le foto del telefono se è possibile, grazie. A 300 non scendi, l'ho preso due giorni fa a 350, no non scendo, mi dispiace. Già non veloce di più, grazie. Poi 256 giga, tanta roba. È come fotografia, bravo, bene. Cazzo, ma sono stato vicino alla foto del vostro telefono, non ho idea, fa delle foto stupende. Adesso infatti la macchina fotografica non serve più, ci sono telefoni che ti fanno delle fotografie chiarissime, non c'è più bisogno della macchina fotografica. Prima io, cazzo, c'avevo una Canon professionale, poi l'ho regalata a Manuela, e questa Canon costava 1200 euro da quando l'avevo comprata. Qui è aumentata perché è il modello migliore, è la D60, la Canon D60, è la migliore che c'era allora. cioè sta occupando adesso 71 giga, perché ci ho passato tutta la roba del mio telefono qua, e adesso ne ho praticamente 180 circa di spazio, sono tanti . Aspetta un attimo che c'è qualcuno che sta chiamando. Avanti, chi chiama? Sì, ci sentiamo, avanti, che abbiamo l'onore di parlare. Sì, ci sentiamo. Chi sei? Avanti. Sì, a sentire ti sentiamo. Come ti chiami qua nella stazione Doppio Room in compagnia di Luca? Avanti. KK, ma se lo si usa, lo abbiamo fatto di qua, si usa. Ah, ecco. Ma non sei di qua? Perché ti sentivo un accento un po' continentale, capito? Forse era la mia impressione. KK, capito. Comunque ho azzeccato, dai, qualcosa del nord ce l'hai. No, non c'è disturbato affatto. Se vuoi rimanere, rimane, non c'è problema. KK, va bene, dai. Ti salutiamo allora e buona carica quando la fai. Avanti, Luca. Ehi, non so se mi ascolta a me, non so dove sia neanche. Comunque saluto l'amico, buona carica, alla prossima. Vicino dove, eh? L'Aurora. Ah, ok. Tu arrivi un po' basso qua, eh. Va bene, dai. Alla prossima, allora. E niente, avanti già. Comunque da questa parte Luca, eh. Avanti già. C'è la radio bassa comunque, quello che c'è basso la radio. Alza il marchi game magari. Luca, senti a vuoto qua. Beh, qua era 5-6. Poi vabbè. Adesso di essere zero, io pensavo che fosse un nominativo che ci ha messo per qua. Allora, andiamo a Tore. Eia. Ah, capito. Abbiamo copiato, ripeto. Adesso arrivi in basso, non riesco a capire cosa dice. Tu caroco? No. Io sento che parla, ma non sono unici delle parole. Non so chi sia, non c'ho quaderno. E comunque era basso di radio, arrivo a Santiago, ma la radio non era forte. Non so chi sia già, non lo sento. No, ma lo io. Cos'è, ma niente, sì, che ci sei mangiati dei cucciucci. E comunque, Luca, se ci viene in coso di andare in palestra, guarda, non è male. Fai un po' di sforzo, perché lo fai. Io a volte cazzo proprio sforzo di brutto. Però perché ci sono degli esercizi che proprio ti vedi diventare ruvido e faccia, devi tenere la pancia dura, alzare la gamba, respirare, poi buttare fuori il respiro, abbassare la gamba, stare in apnea, sempre di 5 in 5, capito? 5 secondi uno, 5 secondi l'altro, 5 secondi l'altro. Già, ci credo. Vabbè, comunque. Vediamo, quanto paghi già? Nulla, te l'ho detto. A me, io sono andato dall'ortopedico, l'ortopedico mi ha assegnato questa palestra. Poi sono andato al dottore, mi ha fatto l'impegnativa, io sono esente e non pago nulla. Ah, e poi siamo in una palestra che a pagamento, ho capito. Sì, è a pagamento, ma se c'è l'esenzione sono praticamente affiliati con l'SL, quindi non paghi. C'è gente che paga per farlo. Uno per fare, non so quanti esercizi, 10 volte mi ha chiesto 280 euro. Perché la reception è all'entrata, quindi tu sei seduto a fianco alla reception, ci sono i sedili e ti chiamano quando è ora di fare la ginnastica, no? Ti chiamano e senti tutto quello che succede quando arriva la gente. Ho capito. Non so se, non credo a me gli spiriti, poi se mani per via del... come si chiama? Per via del insomma, del... va, tecnologie che hai. Esatto, sì, io ho l'esenzione, capito? C'ho la C3 io, l'esenzione, quindi mi spetta di diritto. Ma c'è molta gente che va a pagamento, gente che non c'ha l'esenzione paga, o gli farò pagare il ticket di certe cose, se l'esenzione è bassa ti farò pagare il ticket. Ho capito. Abbiamo fatto un video, già, vabbè, adesso vediamo. Io ho questa schiena, mamma mia, tu sono... La settimana scorsa mi si è bloccato, non riuscivo a fare niente. Mi si è bloccata la gamba. Mi tiravo il nervo, l'ero sciatico, non mi facevo muovere, non potevo camminare. Zoppicavo, mi facevo malissimo quando anche quando zoppicavo. Me l'ho vista brutta, poi ho passato questa provata che si chiama Bassano Cavallo, quella lì, dopo un po' di volte che l'ho passata me l'ha fatto passare, però è brutto, quando ti tirano i nervi così, mi tiravano le mani, da tutte le parti, e quella lì è sicuramente artrosi, cosa ne so. Ehi, già, questo qua è fatto, poi ce li abbiamo, ce li dobbiamo ottenere. A me per esempio la gamba sinistra, quando io vado a mettere un pantalone mi tira su, nell'anca. Poi bisogna sempre vedere anche la misura, cioè, ti misurano anche le gambe, se sono tutte due uguali, le mie sono perfette. Una signora gli ha trovato una gamba più corta dell'altra, c'è con ragione che gli fa male quando cammina. Ce n'è una più corta dell'altra, non se ne è mai accorta, no. Ah, ho capito. Fagli una vita. Posso. Sicuramente. Ma non se che anche io l'avessi diverso, perché poi come ho fatto le operazioni, quando ti fa l'operazione, te le allineano una con l'altra, capito? Ma tu quel problema dell'anca non ce l'hai più. Cosa? Quel problema dell'anca non ce l'hai più. Se non ce l'ho, non c'ho più l'osso, praticamente c'ho la protesi da tutte e due le parti, è come la cosa bene, grazie a Dio no. Perché dolore a me? No, assolutamente, non è quello il problema è il nervo sciatico che mi fa male, capito? Che si è demolito e mi tirava come se avessi un crampo, ce l'ha presente, è fisso. Ah, sì. Ti sta il nervo in tira proprio, cazzo, guarda. È un dolore atroce, meglio non provare di queste cose. Mi sono fatto anche la borsa da pancarlo, non ho battuto. Beh, immagino. Vabbè. Io ci vuoi fare già, purtroppo... Io non so come sono, dici da se li tiene. Sai così, a me mi sembra che sia dal vaccino che abbiamo fatto, perché ho sentito molta gente che sta venendo in palestra che ha lo stesso problema mio, che gli ha fatto la stessa cosa. C'è un signore, un'altra signora, lo stesso, sono due o tre che hanno lo stesso problema. E questo signore è anche giovane, avrà penso 55 anni. È giunto che non riesce a mancare bubissica, zoppicato. Adesso questo dolore io, se quando metto il pantalone, qualsiasi cosa mi fa un mettita. Un po' meno, ma ci sono momenti che mi tirano un bel. Infatti dovrei fare qualche controllo. Io ce l'ho un metodo per la schiena, per non farcela tirare così. Sexy dance. Oh. Yeah, sexy dance si chiama. La danza del sesso. No, a parte gli scherzi, per rinforzare il bacino, perché allora praticamente ci ha spiegato che tutto dipende da lì, le gambe, la schiena, i muscoli della schiena, sono tutti dovuti dal bacino, bisognerebbe rinforzare tutti i muscoli dal bacino. Tu sai che esercizi fai? Su internet l'ho visto ieri, c'era una ragazza che stava facendo gli stessi esercizi che fa fare a noi. Ho capito. Già, bisogna vedere. Bisogna vedere. Ma bisogna saperli fare giusti, capito? Allora, questi esercizi qua, se li fai bene ti fanno bene, se non se li fai alla mena futu, che non li fa come ti dice l'istruttore, non valgono a niente, ce l'ha spiegato. Perché quando tu scendi la gamba devi portare l'ombelico dentro e praticamente sentirti la pancia durissima, capito? Mentre tu fai questo, è uno sforzo pazzesco, però lo devi fare. Se non fai così è inutile che lo faccio l'esercizio. Vabbè, secondo te. E comunque mi sono accorto che ho delle migliorie da quando sono andato. Tipo quando andavo in macchina che andavo a rialzarmi, non riuscivo più a rialzarmi in casa, tutto, mi sentivo un uscino, invece adesso scende su altezza tutto. Beh, ci credo, ci credo. Un casino, io soffro un sacco, poi con i pesi. Con i pesi già, col tempo poi, è così, bisogna andarci piano, tu stesso con i pesi, penso che ti sia trovato a fare, sembra così, ma le trecette pesano, Già lo so, non lo so, io c'è se di pane, ne prendo. Allora, quando c'erano i pesi da fare, io le andavo, le pesavo, le preparavo le mole per l'indomani, per i resi del pane, poi loro mi pare che lo grattugiano e ce lo danno il pane grattugiato, non me lo ricordo come sia. Già, purtroppo per fare in fretta a caricare devi prendere tre. Non faccio molta strada, ma un peso c'è. No, lui, non lo fare, guarda. A me un autista una volta, e ogni volta che c'ho un dolore me ne ricordo. Un autista, un camionista mi ha detto, già, non pigliare i pesi tra la borsa, pigliare a una. Capito, ti domanda un conto mia, ma non ti inabizzi, ti inabizzi da me, io sono tutto truccato. Ma che mangio con la tette. Ma adesso ogni volta che c'è dolore mi ricordo di quella frase. Aveva ragione. Ci credo, ci credo. Mi uguale da ciamelli, mi già. È ora. Questo è come Big Bang. Vabbè. Spostalo magari. Assumi, mi sposto da camera. Mi volto il cestino, un po' che è pieno. Mi vado a prendere la bella. E ora io chiudo, dai, che ci porta a lui. Adesso lo porto pure a lui. Allora, lo trascuro mai. Allora, che devo portare lo porto. Tu lo sa già. Lui, dove andiamo? Se vedi come mi guarda quando dico dove andiamo, gira la testa, è troppo simpatico. Guarda che ho panca idea, a 5 anni, Cioè, gli dico, io lavoro a papà, se vuoi gira la testa. Sono intelligenti, meglio degli esseri umani, so. E a voi? A parte che non ti tradiscono gli animali. Sai cosa c'è? Che vivono troppo poco per quello che merita. Esatto. Sono già 10 anni. L'una ne aveva 12. Già ne ha 10 e mi alzino come... Se trova di correre da subito. Se trova qualche femmina, adesso che sono in calore, sta sempre bugugnando. Quando trova le femmine giù, di giocarsi già poi cerca di farsi. E già, cosa vuoi ti dica? Purtroppo anche loro campano poco, altro non puoi fare. Vabbè, io non ci voglio pensare, lui. Non ci voglio pensare, lui è come, un figlio. Ci sentiamo, lui. A presto. Alla fine è un figlio, sì. Ciao, già. Alla prossima.